Il terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Ricominciarono ad amarsi. Spesso a metà giornata Emma non sapeva trattenersi, gli scriveva due righe di slancio, poi attraverso i vetri faceva un cenno a Justin, pronto a sfilarsi il grembiule e a involarsi in direzione della Huchette. Rodolphe accorreva al richiamo. Lei desiderava ripetergli che suo marito era odioso, che la sua esistenza era orribile. La passione per l'amante cresceva di giorno in giorno insieme con la ripugnanza per il marito. Più si abbandonava all'uno, più odiava l'altro. La serva non la finiva mai di lavar biancheria. In tutta la giornata Félicité non metteva il capo fuori dalla cucina, ove il piccolo Justin indugiava spesso a tenerle compagnia guardandola lavorare. Félicité però si spazientiva a vederselo girare sempre intorno. Aveva 6 anni più di lui e Théodore, il domestico del signor Guillaumin, cominciava a farle la corte. «Lasciami un poco in pace», diceva spostando il vaso dell'amido. «Va a pestare le tue mandorle piuttosto. Cosa stai sempre a far la posta dove ci son donne? Aspetta almeno che ti spunti la barba, ragazzaccio!» «Via, via, non arrabbiarti. Ti farò le sue scarpe!» E immediatamente prendeva dal piano del camino gli stivaletti di Emma tutti incrostati di fango, il fango degli amori clandestini, che si sfaceva in polvere sotto le sue dita e si incantava a guardarla, quella polvere dolcemente evaporante in un raggio di sole. «Hai paura di rovinarle?» diceva la serva, che quando puliva lei le scarpe non usava una simile delicatezza, tanto appena apparivano un poco consumate la padrona gliele passava. Ne aveva un'infinità nel suo armadio Emma e le andava sciopando un paio dopo l'altro senza che Charles si permettesse la minima osservazione in proposito. Era stato Lheureux, il merciaio, a occuparsi di quegli acquisti e questo gli aveva offerto l'opportunità di vedere spesso Emma. Parlava con lei dei nuovi arrivi da Parigi, di mille curiosità femminili. Si mostrava estremamente compiacente e non presentava mai il conto. Emma s'abbandonava così a quella troppo facile possibilità di soddisfare ogni capriccio. Desiderò avere, per regalarlo a Rodolphe, un bellissimo frustino esposto in un negozio d'ombrelli di Rouen. La settimana dopo Lheureux glielo depositava sulla tavola. Ma il giorno seguente era di nuovo da lei con una fattura di 270 franchi, senza contare i centesimi. Emma si trovò veramente a disagio. I cassetti della scrivania erano vuoti. L'estibudois avanzava 15 giorni di paga, la serva 2 trimestri, c'era una quantità di altre cose in sospeso, e Bovary aspettava con impazienza il saldo del signor de Roseret, solito a pagarlo ogni anno intorno alla festa di San Pietro. Riuscì dapprima a tenere a bada Lheureux, ma alla fine costui perse la pazienza. Gli stavano troppo addosso tutti. Se non avesse potuto recuperare qualcuno dei suoi crediti, sarebbe stato obbligato a riprendersi la sua roba. «Riprendetevela allora», disse Emma. «Oh, facevo tanto per dire», replicò quello. «L'unica cosa che terrei a riavere è il frustino. Ma sì, me lo farò restituire dal dottore». «No, no, no», proruppe lei. «Ah, sei in trappola», pensò Lheureux. E sicuro del proprio successo, se ne uscì ripetendo a mezza voce con il solito sibilo. «Va bene, vedremo, vedremo». Lei si scervellava sul modo di cavarsi da quell'imbroglio, quando la serva entrò per depositare sul ripiano del camino un piccolo rotolo di carta turchina da parte del signor de Roseret. Emma si precipitò ad aprirlo. C'erano dentro 15 napoleoni. Tanto di che saldare Lheureux. Ma sentì Charles salire le scale. Allora buttò quel denaro in fondo al suo cassetto e si mise in tasca la chiave. 3 giorni più tardi Lheureux le ricomparve davanti. «Ho un accomodamento da proporre. Se invece della somma convenuta desideraste...» «Eccola», disse lei, mettendogli in mano 14 napoleoni. Il merciaio restò sbalordito. Allora, per mascherare il proprio disappunto, si profuse in scuse e in nuove offerte. Emma rifiutò qualsiasi proposta. Thank you. Oltre al frustino dal pomo dorato, Rudolf aveva avuto in dono un sigillo con il motto «Amor nel cor», una sciarpa e un portasigari in tutto simile a quello del famoso visconte raccolto in mezzo alla strada da Charles e da Emma gelosamente conservato. Quei regali però lo umiliavano. Ne rifiutò vari. Lei insisté. Rodolphe finì per cedere, trovandola a ogni modo troppo tirannica e invadente. Lei aveva certe idee a volte. «Quando suonerà mezzanotte, devi pensare a me», gli diceva. E se poi lui onestamente le confessava di non averci pensato affatto, era un diluvio di rimproveri. La scena culminava nell'eterna domanda. «Mi ami?» «Certo, ti amo. Molto. Certo, certo. Hai mai amato altre?» Lui non poteva trattenersi dal ridere. «Ma dimmi, non crederai di avermi preso vergine?» Emma giù a piangere. Allora a lui toccava consolarla, placare quelle proteste con qualche battuta di spirito. «Oh, è perché ti amo! Ti amo tanto da non poter vivere lontana da te, mi capisci? A volte ho un tale desiderio di vederti che mi sento straziare da tutte le furie dell'amore. Mi domando, ma dov'è in quest'attimo? Forse sta parlando con altre donne. Gli sorridono e lui si avvicina. Oh, no, vero! Nessun'altra ti piace. Ce ne sono di più belle di me, d'accordo? Ma io so amare meglio. Sono la tua schiava, la tua concubina. Tu sei il mio sovrano, il mio idolo. Sei buono, sei bello, sei intelligente, sei forte». Lui se l'era sentite dire tante volte queste cose, che non poteva trovarvi più nulla d'originale. Ma con quella facile superiorità di critica propria a chi, in qualsiasi impresa, si tiene indietro senza compromettersi, Rudolf intravide in quell'amore altri godimenti da assaporare. Giudicò fuori luogo ogni pudore. Trattò l'amante senza il minimo riguardo. La ridusse alla più assoluta docilità, alla più convinta corruzione. Emma aveva per lui un attaccamento idiota, ribollente d'ammirazione. Ne ricavava una gran voluttà, una beatitudine paralizzante. A causa delle sue nuove abitudini amorose, la signora Bovary mutò modi. I suoi sguardi diventarono audaci, i suoi discorsi liberi. Ebbe addirittura l'impudenza di andare a passeggio con Rodolphe tenendo una sigaretta in bocca come per sfidare la gente. La sua anima si sprofondava in quell'ebbrezza, vi s'annegava, vi s'annullava come il duca di Clarence nella botte di Malvasia. La vecchia Bovary, che era venuta a rifugiarsi a casa del figlio dopo una spaventosa scenata con il marito, non trovava conveniente il tono della casa. Si permise qualche osservazione. Così arrivarono a litigare, soprattutto una volta a proposito di Félicité. La sera prima, la vecchia Bovary, attraversando un corridoio, aveva sorpreso costei in compagnia di un uomo bruno, barbuto, sulla quarantina, che al rumore dei suoi passi era scappato dalla cucina. Emma si mise a ridere. Ma la suocera si arrabbiò e dichiarò che se non si vuol mancare di rispetto alla morale, occorre cominciare a sorvegliare i costumi della servitù. «Ma a che mondo appartenete?» disse la nuora, e aveva uno sguardo talmente insolente che la vecchia Bovary le domandò se non stesse per caso difendendo la propria causa. «Fuori di qui!» gridò la giovane donna balzando in piedi. «Emma, mamma!» piagnucolava Charles per pacificarle. Portate dall'esasperazione, erano uscite tutte e due dalla stanza. Emma batteva il piedino, ripeteva «Oh, che modi, che contadina!» Allora lui corse dalla madre, ma anche quella era fuori di sé, balbettava «È una maleducata, o un'esaltata, o peggio ancora!» E voleva andarsene immediatamente se l'altra non le avesse offerto le sue scuse. Charles tornò dalla moglie e la scongiurò di cedere. Si mise persino in ginocchio. Lei finì per rispondergli «E va bene, ci vado!» e tese la mano alla suocera con una dignità di marchesa, dicendole «Scusatemi, signora!» Poi, risalita nella sua camera, si buttò bocconi sul letto e pianse come un bambino, la faccia affondata nel cuscino. Thank you. s'erano messi d'accordo lei e Rodolphe che, nel caso di qualche fatto straordinario, lei avrebbe attaccato alle imposte un pezzo di carta bianca. Se si fosse trovato a Yonville, lui sarebbe immediatamente accorso nella viuzza dietro casa. Emma espose il segnale. Era in attesa da un tre quarti d'ora, quando d'improvviso vide Rodolphe all'angolo del mercato. Discese le scale, attraversò il cortile. Era là fuori. Gli si precipitò tra le braccia. «Ma sta attenta», disse lui. «Oh, se sapessi, se sapessi!» Cominciò a raccontargli tutto in fretta e furia, senza il minimo nesso, esagerando i fatti, inventando i particolari, aprendo un tal numero di parentesi che lui non riusciva a capir nulla. «Su, su, angelo mio, coraggio! Cerca di farti una ragione, pazienza!» «Ma son 4 anni che ho pazienza e soffro! Un amore come il nostro andrebbe confessato alla luce del sole. Adesso si son messi a torturarmi, non ne posso più, salvami!» Si stringeva a Rodolphe. I suoi occhi pieni di lacrime scintillavano come fiamme sotto un'onda. Il suo petto palpitava in tumulto. A lui non era mai piaciuta tanto. Perse la testa. Arrivò a domandarle: «Cosa vuoi da me?» «Portami via! Portami via! Oh, te ne supplico!» Smaniosamente gli cercò sulla bocca il consenso insperato, esaltante in un bacio. «Ma...» disse Rodolphe. «Cosa c'è ancora? E tua figlia?» Stette a riflettere per qualche attimo, poi si decise. «La porteremo con noi, meglio così!» «Che donna!» disse lui a se stesso mentre la guardava allontanarsi. L'avevano chiamata, doveva correr via in giardino. I giorni seguenti la vecchia Bovary restò meravigliata della metamorfosi della nuora. Emma infatti si mostrò docile come non mai, spinse la deferenza addirittura a chiederle una ricetta per marinare i cetrioli. Non era mai stata così bella la signora Bovary. Adesso possedeva l'indefinibile bellezza che risulta dalla gioia, dall'entusiasmo, dal buon successo. In poche parole, dall'armonia del temperamento con le circostanze. I suoi desideri, i suoi patimenti, l'esperienza del piacere e il rinverdire delle illusioni l'avevano maturata poco a poco, come fanno con i fiori il concime, la pioggia, i venti e il sole. Finalmente sbocciava nella pienezza della sua natura. Come ai primi tempi del matrimonio, Charles la trovava deliziosa, assolutamente irresistibile. Quando rincasava, a notte avanzata, non osava svegliarla. Emma non dormiva, faceva soltanto finta. E mentre lui le si assopiva al fianco, si destava ad altri sogni. Al galoppo di 4 cavalli, da 8 giorni viaggiava verso un paese nuovo da cui non sarebbero mai più tornati. Andavano, andavano, abbracciati, senza parlare. E poi, una sera, arrivavano in un villaggio di pescatori, ove reti brune erano tese ad asciugare al vento lungo la scogliera e le capanne. Si fermavano a vivere lì. Avrebbero abitato una casa bassa, con il tetto piatto, l'ombra d'una palma, in fondo a un golfo sulla riva del mare. Nessuna soluzione di continuità nell'immensità di quel futuro che lei si proponeva. Tutti magnifici i giorni avrebbero somigliato l'uno all'altro come onde. L'orizzonte era infinito, armonioso, celeste, assolato. Ma la piccola attaccava a tossire, oppure Bovary russava più forte, ed Emma riusciva a trovare un poco di requie solo al mattino, con i vetri ormai bianchi di luce e il rumore dei battenti della farmacia nella piazza, aperti come al solito dal piccolo Justin. Aveva mandato a chiamare Lheureux, gli aveva detto: «Avrei bisogno di un mantello grande con il colletto alto e foderato. E mi occorrerebbe pure un baule, non troppo pesante, comodo.» «Sì, sì, sì, ho capito. 92x50 circa, come si usa adesso. E una borsa da notte.» Gatta ci cova, pensò Lheureux. «Tenete», disse la signora Bovary, tirando fuori l'orologio dalla cintura. «Prendete questo e pagatevi.» Ma il merciaio protestò che, via, non poteva trattarlo così. Si conoscevano bene. Perché mai lui non avrebbe dovuto fidarsi di lei? La fuga era fissata per il mese seguente. Lei sarebbe partita da Yonville come per andare a fare commissioni a Rouen. Rodolphe avrebbe pensato a prenotare i posti, a ritirare i passaporti, a scrivere a Parigi per avere a propria disposizione esclusiva la diligenza sino a Marsiglia. Là avrebbero acquistato una carrozza per proseguire senza indugi sulla strada di Genova. Emma avrebbe pensato a mandare il suo bagaglio da Lheureux. Costui si sarebbe incaricato di farlo portare direttamente alla rondine. Così nessuno avrebbe potuto nutrire il minimo sospetto. In tutti questi progetti, neppure una parola a proposito della piccola. Rodolphe evitava l'argomento. Magari lei si era già dimenticata quell'idea. Volle avere ancora 2 settimane davanti a sé per mettere a posto certe faccende. Poi, in capo a 8 giorni, ne domandò altri 15. Poi si dette malato. Poi fece un viaggio. Il mese d'agosto passò così. E dopo tanti rinvii, stabilirono che sarebbe stato irrevocabilmente per il 4 settembre, un lunedì. E arrivò finalmente il sabato, l'antivigilia. Rodolphe, quella sera, si fece vedere prima del solito. «Tutto pronto?» gli domandò lei. «Sì, ma tu sei triste», disse Emma. «No, perché?» E tuttavia la guardava in modo particolare, con occhi teneri. «Sei triste perché stai per partire? Perché stai per abbandonare i tuoi affetti, la tua vita?» «Ah, capisco. Ma io non ho nulla al mondo. Tu sei tutto per me. E io sarò tutto per te. Sarò la tua famiglia, sarò la tua patria. Avrò ogni cura di te. Ti saprò adorare». Dolce la notte si stendeva intorno a loro. Vene d'ombra palpitavano nel fogliame. «Che notte!» disse Rodolphe. «Ne avremo altre, migliori!» replicò Emma. E aggiunse come rivolgendosi a sé sola. «Sì, sarà bello viaggiare. Ma perché mai ho il cuore così triste? Forse è la paura dell'ignoto, il pensiero di abbandonare ogni abitudine, o piuttosto... No, è l'eccesso della gioia! Ah, sono debole, vero? Mi devi perdonare. C'è ancora tempo. Riflettici. Forse ti sei già pentita. Mai!» gridò lei impetuosamente. Egli si riaccostò per sussurrargli. «Cosa potrebbe succedermi mai di brutto? Non c'è deserto, non c'è abisso, non c'è oceano che non affronterei al tuo fianco. A vivere insieme sarà come stringerci ogni giorno di più, fonderci maggiormente. E non ci sarà nulla a turbarci, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, padroni di noi stessi, per l'eternità». Suonò la mezzanotte. Lui si alzò per andarsene, e come se quell'atto fosse il segnale della loro fuga. Emma diventò di colpo tutta allegra. «Li hai i passaporti?» «Sì». «Sicuro di non dimenticare nulla?» «Come no? Ma proprio sicuro, sicuro? Sicurissimo! Allora mi aspetterai all'albergo Provenza, d'accordo? A mezzogiorno!» Lui annuì senza parlare. «A domani, dunque!» disse Emma con un'ultima carezza. Stette a guardarlo allontanarsi. Non si girava lui. Allora gli corse dietro, si protese sulla sponda tra le macchie per gridargli ancora «A domani!» Lui era già dall'altra parte del fiume. Camminava in fretta nella prateria. Solo dopo qualche minuto di rincorsa, Rodolphe si fermò. E quando la vide svanire a poco, con la sua veste bianca, nell'ombra come un fantasma, si sentì battere talmente il cuore che dovette appoggiarsi a un albero per non cadere. «Ma che imbecille sono!» disse, e bestemmiava orribilmente. «Però... era una magnifica amante!» E di colpo gli insorse contro la bellezza di Emma, con tutti i piaceri di quella relazione. Dapprima si intenerì, poi se la prese con lei. «Non posso mica andare in esilio e addossarmi anche un figlio non mio!» Si ripeteva queste cose per rafforzarsi nella decisione presa. «E poi i pasticci, le spese... Ah, no, no,